GR Sport. Buongiorno, in apertura subito la Coppa UEFA con la semifinale di ritorno tra Fiorentina e Rangers. Sentiamo. Sì, la Glasgow Rangers chiude la porta dell'Europa alla Fiorentina, vince a rigore 4-2 con lo spagnolo Novo che batte quello decisivo dopo gli errori di Liverani e Vieri. Eppure la roulette dei rigori era iniziata bene per la Fiorentina perché Freire l'ha parato di pugno il tiro di Ferguson. La Fiorentina esce a testa alta ma con tanto amaro in bocca contro i Glasgow Rangers, ha giocato due partite sempre all'attacco ma non ha mai trovato il gol contro una squadra scozzese sempre molto ben coperta che ha opposto un ordinato catenaccio. 0-0 all'andata, stesso risultato anche ieri sera, i supplementari non hanno modificato il risultato finale. Gli ultimi 9 minuti la Fiorentina li ha anche giocati in superiorità numerica ma i viola hanno collezionato solo una lunghissima serie di occasioni di tiri fuori che non le hanno regalato la finale. L'avventura della Fiorentina finisce qui. Ubaldo Cianciulli, GR24, Sole 24 Ore, Firenze. L'altra finalista di UEFA sarà lo Zenit San Pietroburgo, che ha travolto ieri il Bayern Monaco 4-0 nella semifinale di ritorno. Lo Zenit, pur privo di 3 titolari squalificati, ha inflitto al Bayern la più pesante sconfitta in campo europeo della sua storia. E mancano solo 2 giorni al derby della Madonnina, gara clou della domenica calcistica in Serie A. I rossoneri puntano a una vittoria che li avvicinerebbe alla qualificazione preliminare di Champions League. I nerazzurri cercano invece la sicurezza matematica dello scudetto, data anche in questo caso dai 3 punti. A Rai Sport il capitano dell'Inter, Javier Zanetti, dice non è una partita come le altre. Mi sono accorto subito nel primo derby che ho giocato. Cosa voleva dire vincere un derby? Cosa provava il tifoso per questa partita qui, e da lì credo che ho capito l'importanza di questa partita. Intanto Giovanni Trapattoni, nuovo CT della nazionale irlandese, ha cominciato ieri il suo lavoro nell'isola di Smeraldo. Trapattoni in tutta l'Irlanda è atteso all'opera come un vero e proprio messia che dovrà guidare la nazionale verde alla qualificazione ai mondiali in Sudafrica. Ma sentiamo il Trap. Quando affronti queste avventure, queste le chiamano sfide, diciamo, challenge, no? Challenger. E bisogna essere carichi, 100%, cariche di entusiasmo, cariche di volontà, convinti, con la fiducia positiva che si può far bene e solo con la positività si può raggiungere quello che non si raggiunge diversamente. Dal calcio al basket, oggi scattano le Final Four di Eurolega a Madrid con Siena alla caccia del titolo europeo, il servizio. Sogna in grande la Siena di Simone Pianigiani, che domina in Italia e che entra all'ultimo giro di Flamenco da protagonista tra le 4 pretendenti al trono europeo nelle Final Four di Madrid. In semifinale per i toscani l'ostacolo è il Maccabi Tel Aviv. Gli israeliani sono la squadra di un popolo e avranno almeno 5.000 tifosi in tribuna. Ma in campo hanno sì la classe di Vujicic, pivot nel fisico e playmaker nella testa e nelle mani, ma anche l'altalenante Bynum in regia. Insomma, avversario battibile, purché McIntyre sia al massimo. Nell'altra semifinale il CSKA Mosca di Ettore Messina, grande favorita per il titolo, affronta il Tau Vitoria, l'unica iberica presente nelle finali a 4 in terra di Spagna. Dario Ricci, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed era questa l'ultima notizia di GR Sport, a tutti l'augurio di una buona giornata.